Se potessi riavere tutto il tempo perso, dalla scuola ai ricordi di un ragazzo, i miei primi 18 anni da finire, e tra le mani quasi tutto da scoprire. Se potessi riavere tutto il tempo perso, dall'asilo ad un gioco in un momento, le risate più felici di un bambino che gioioso guarda il sole del mattino. Se potessi riavere la prima elementare, non tornerei più in classe per sbagliare. E poi la prima comunione, sicuramente una vera delusione. Se potessi riavere tutto il tempo perso, non andrei più in chiesa per pregare o per fingere qualcosa nell'universo. In fin dei conti, che viviamo a fare? Se potessi riavere tutto il tempo perso, non avrei più voglia di questo mondo pieno di lacrime, di urla e patimento, e ogni giorno più forte il suo lamento. Se potessi riavere tutto il tempo perso, a pensarci bene non lo rivorrei. Convinto come sono di essere lo stesso, starmene da parte nei fatti miei. Rinizierei da capo quello che ho fatto, senza la vergogna d'un maestro sciocco che dopo tanto tempo mi saluta. Se potessi riavere tutto il tempo perso, a pensarci bene non lo rivorrei. Dato che la vita passa come il vento, cosa me ne farei? Cosa me ne farei? Del tempo perso.